tutti gli ascoltatori di 42 La Risposta. Siamo oggi qui in compagnia di Luigi Lollini, autore del romanzo La Controfigura, pubblicato dalla casa editrice Allegre a maggio del 2018 nella collana Quinto Tipo. Buongiorno a tutti e tutte. Partiamo subito dal raccontare ai nostri ascoltatori che tipo di oggetto narrativo abbiamo di fronte. È difficile definire la controfigura solo un romanzo. Quello che viene narrato è una ricerca, quasi un'indagine condotta da Alberto, il narratore, sulla vita, che definirei incredibile, di Eduardo Rocha Flores, un personaggio realmente esistito e di cui emerge nel libro una sorta di biografia, un ritratto che però non sembra chiudersi mai, non giungere mai a definizione. Puoi dirci, Luigi, chi è stato, soprattutto chi è stato per te Eduardo Rocha Flores e perché hai scelto di misurarti con lui e con la sua vita? Io incontrai Eduardo Rocha Flores nel 1988. Ero uno studente universitario di lettere e lui, Eduardo, venne a Bologna come rappresentante dei giovani comunisti ungheresi. Lo conobbi per caso, lo rividi l'anno successivo, nel 1989 a Budapest. L'ho perso di vista, dopo molto tempo ho cercato di sapere qualcosa su questa persona, su questo amico perso, e così ho scoperto che aveva cambiato vita, aveva fatto cose molto strane, in buona parte impensabili. E così, come il narratore del libro, del romanzo, io ho cercato di sapere qualcosa di questo Eduardo Rocha Flores. Ho pensato, così come pensa il narratore Alberto, che attraverso questa figura composita, strana, si potesse guardare il presente e l'immediato passato e si potesse gettare una luce sulle nostre vicende personali, nostre, di cittadini che magari in questo presente pensano di dover fare qualcosa per cambiare la società. Leggo un brano da pagina 73. Io credo che gli siamo stati davvero simpatici. Era nel suo elemento, dava spettacolo, aveva storie da raccontare. Con noi non correva rischi, ne avrà avuti tanti di incontri così, intercambiabili, quindi mai davvero importanti. Per noi invece lo è stato molto di più, perché siamo piccola gente, con un lavoro, un orizzonte, un cumulo di non si può davanti a noi, grosso come una casa. Alla gente come lui, credo venisse insegnato che la parola impossibile non esiste. In effetti, pensare a lui aiuta. Io personalmente, Luigi, ho letto la controfigura come una sorta di confronto continuo, a volte anche di scontro, tra il mondo di Alberto, che è un insegnante bolognese, padre di famiglia, con un passato da militante politico e un presente fatto di piccole cose, con la vita maiuscola di Eduardo, che attraversa la storia da protagonista nell'Europa del crollo del socialismo, delle guerre in Jugoslavia, della Bolivia e di Evo Morales. In questo confronto non è solo la vita di Alberto, ma quella di un'intera generazione ad essere analizzata, ad essere chiamata a dar conto delle scelte effettuate. E quello di Alberto non sembra un bilancio completamente positivo. Sei d'accordo con questa lettura? Che bilancio puoi fare della generazione di Alberto, che poi è anche la tua e la nostra? Alberto è un uomo che ha fatto politica, ma non vive completamente nel riflusso, non è uno che si disinteressa a ciò che gli succede accanto. È una persona però che, come si dice, tiene famiglia, ha dei doveri, ha degli obblighi, ha un lavoro quotidiano e quindi non può fare la vita da militante e forse neanche vorrebbe farla. Però, insomma, è un individuo che si pone delle domande politiche e agisce anche politicamente. Eduardo è uno che ha militato e la sua militanza ha coinciso a volte con delle guerre, con dei conflitti quindi che il narratore ritiene o inutili o soprattutto sbagliati. E comunque questa figura permette di pensare al passato di Alberto e al presente di Alberto e quindi permette di ripensare o di pensare alla politica ieri e oggi. Ha una certa idea di militanza, ha un'idea di lotta che non sia per forza riconducibile alla metafora della militanza, perché esistono forme di impegno e di lotta che non sono per forza definibili come militanza. Tenendo presente però che il conflitto esiste, è positivo ed è necessario per trasformare la società. Passiamo adesso alla forma del romanzo, al suo stile, che è molto particolare. La controfigura sembra mescolare elementi del romanzo d'inchiesta, della biografia, del racconto di finzione, dell'autoanalisi. sembra chiamare il lettore a un continuo gioco interpretativo, chiedendogli anche di partecipare all'inchiesta, di verificare le fonti, di seguire le tracce di Edoardo, che poi sono anche numerose nel web, si ritrovano video, interviste. Puoi spiegarci la scelta di questo stile narrativo, se la forma che ha assunto il tuo romanzo è quella che ti aspettavi fin dall'inizio, se ha preso una forma un po' con il passare del tempo e del tuo lavoro? Se dovessi dare un giudizio su Edoardo in una forma non romanzesca, direi non sono d'accordo con lui, ha sbagliato. Invece la forma romanzesca permette di sovrapporre e far collidere più punti di vista più o meno vicini al narratore, e poi permette di ragionare su livelli di realtà e di menzogna, perché un personaggio come Edoardo, che è stato agente segreto, guardia di frontiera, giornalista, poeta, attore, è stato un combattente nell'ex Jugoslavia, è stato vicepresidente di una delle comunità musulmane dell'Ungheria. Insomma, una figura così dobbiamo guardarla da più punti di vista. Ci vogliono più sguardi, ci vuole uno sguardo multiplo, uno sguardo con cui io a volte non sono d'accordo, perché questo permette di capire meglio tutto ciò che sta intorno a Edoardo, tutto ciò con cui Edoardo entra in contatto. E questo è il mondo in cui noi viviamo, sono le contraddizioni che noi affrontiamo. Bentornati in studio, qui a 42 La Risposta. Oggi parliamo del romanzo La Controfigura di Luigi Lollini, con una nuova domanda, questa volta sul rapporto tra verità e menzogna, che sembra essere appunto uno dei temi rilevanti all'interno del lavoro. Partiamo dalla citazione vera, finta, del motto di Che Guevara: la verità è rivoluzionaria, la menzogna è reazionaria, oppure al bellissimo, secondo me, passaggio in cui descrivi la verità, o un certo tipo di verità, come una ripetizione verso la fine del libro. E nel libro ci sono molte situazioni e molti passaggi che vengono ripresi, ripetuti, rimaneggiati, a volte con pochissime differenze, quasi a voler dar loro una forza di verità o un'esistenza più certa, sottraendoli all'oblio, alla dimenticanza. Quanto pensi sia importante questo tema all'interno del tuo lavoro? È importante perché al centro della vicenda c'è un uomo, Edoardo Roja Flores, che ha vissuto, direi, nella menzogna, nella simulazione o nella dissimulazione. È un personaggio in cui è difficile districare, distinguere ciò che, diciamo, è vero e ciò che è menzogna, apparenza, gioco delle parti. Quindi è un tema che per forza si deve affrontare in un libro che racconta le vicende di Eduardo Rojas Flores. Un uomo che smentisce se stesso, che è una sorta di Zelig, che è uno che interpreta più ruoli, che recita più ruoli. Prima della caduta del muro di Berlino è un comunista che sembra eretico, oppure sembra voler fare carriera all'interno delle burocrazie del socialismo reale, dopo invece è uno che si avvicina alla destra. Quindi ecco, cos'è vero e cosa vuol dire anche verità calato nel vivere sociale? Torniamo alla ricerca di Alberto, una ricerca che possiamo definire estenuante, ossessiva, come alcuni tratti del suo carattere. Penso ad esempio alla paura dei microbi, alla scena della sauna di Budapest e ai rituali di purificazione che i suoi ospiti devono compiere prima di entrare nella sua casa. E l'ossessione e la paura di essere contagiati dal mondo esterno sembra un po' contraddire la natura solidale, affabile di Alberto nei confronti degli altri. Degli ultimi in particolare, dei senza tetto, no? C'è la scena di Alberto che aiuta Claudio ad attraversare Piazza Verdi. E in che modo questi aspetti della personalità di Alberto coesistono e soprattutto quale funzione narrativa svolge la sua ossessione? Alberto sembra durante la vicenda ossessionato dalla figura di Eduardo e senz'altro vuole sapere qualcosa. È un tratto anche del personaggio Alberto. Alberto si chiede quando fa inchiesta se non sta perseguitando alcune persone, donne, a cui fa delle domande, per esempio la sorella di Eduardo Rojas Flores, una autrice svizzera che sta facendo un film sul proprio cugino ucciso probabilmente da Eduardo, dagli uomini di Eduardo nei Balcani. Quindi c'è questo aspetto. In me l'ossessione più che verso Eduardo c'è nell'idea di amicizia, di perdita dell'amicizia. Io non mi sono sentito perso, non ho sentito di aver perso tanto Eduardo quanto di aver perso altri amici. Quindi questo l'ho giocato nel raccontare di Eduardo. Il personaggio Alberto è un personaggio, come dicevi, che ha dei tratti nevrotici. Visto che la vicenda si basa su un confronto a distanza tra due figure principali, ho pensato che si dovessero creare delle frizioni, delle corrispondenze, però ecco, l'ossessione e i rituali sono qualcosa che sta tra la psicologia, diciamo, la psiche e l'antropologia. E visto che una parte del libro parte di questi... di alcuni di questi problemi, l'ossessione, diciamo, nevrotica diventa un modo per parlare anche di priorità etiche e dell'altra faccia delle priorità etiche. Insomma, la nevrosi è sempre qualcosa che mette in scena un conflitto, è un conflitto interiore, e quindi chi è nevrotico, chi è ossessivo ha in sé un conflitto e magari quindi fuori casa è disponibile ad aiutare quello che sta per morire d'overdose o il barbone, e in casa invece, in una sfera diversa, privata, vive una sofferenza che dovuta magari al proprio passato. You can't take it. Bentornati in studio, qui a 42 La Risposta. Si discuteva con Luigi Lollini, autore della controfigura della ricerca ossessiva di Alberto, il protagonista nel romanzo, di informazioni sulla vita straordinaria e straordinariamente contraddittoria di Eduardo Rojas Flores. Una ricerca ossessiva ma non solitaria. Alberto infatti coinvolge nel suo lavoro non solo le persone che hanno conosciuto Eduardo e che lui contatta ripetutamente, ma anche personaggi come sua moglie Luisa, sempre molto preziosa nei suoi consigli e nelle sue osservazioni, Daniele che ha compiuto con lui il viaggio, Francesco e tutta una serie di nomi e figure sparsi per l'Europa e per il mondo che costituiscono per così dire la sua rete sociale, la sua comunità che emerge. E c'è forte questo bisogno di comunità di Alberto, anche questo molto diverso da quello di Eduardo, no? Che cercava alleati, si legge, ma non poteva invitare gli amici tutti insieme al compleanno. Puoi dirci da chi è composta questa comunità di Alberto e se in questo bisogno c'è anche un desiderio politico di comunità oltre che individuale? Eduardo diventa un pretesto per Alberto per incontrare di nuovo vecchi amici e per incontrare persone che Alberto non conosce. Quindi Alberto, il narratore, ha bisogno di aiuto perché non è esperto di Sud America o di Ungheria, non conosce l'ungherese, quindi ha bisogno di aiuto, ha bisogno di persone, di individui competenti che lo aiutino a capire i luoghi e le lingue che Eduardo Rojas Flores ha attraversato. In questa ricerca, quindi, contatta vecchi amici, ma contatta anche persone che non conosce, persone che gli sono vicine da un punto di vista umano e politico e anche qualcuno che non è proprio del tutto vicino. Attinge alla propria memoria, attinge al repertorio di amici che hanno fatto con lui l'università, hanno fatto politica insieme. C'è un'amica che vive a Parigi, Cristina, che gli permette di contattare Mathias Senard, uno scrittore francese, per esempio. C'è una sconosciuta che è Anja Kofmel, che è una disegnatrice e regista svizzera. Si tratta di una comunità composita, fatta di vicini e distanti, spesso persone che vengono contattate al telefono o attraverso mail, qualche volta persone che sono state vicine al narratore e che si vedono sempre meno. E poi c'è la compagna di vita, la moglie Luisa. C'è un bisogno di ritrovare gli amici, così come nelle formazioni partigiane si poteva fare un'azione insieme, poi il gruppo si scioglieva e sapeva dove rincontrarsi. Così forse Alberto sente l'impegno come un'azione collettiva che c'è stata e visto che c'è stata ci potrà essere di nuovo. Però non può riguardare sempre le stesse persone, un gruppo di amici. Devono arrivare degli sconosciuti che ci possano far vedere quello che fino ad oggi non avevamo visto. Sì, ci sono tanti nomi, tanti volti, ma anche tanti luoghi nel tuo romanzo. Si è tentati di seguire un po' la vita di Eduardo sul planisfero, muovendosi insomma dall'Ungheria, la Croazia, gli Stati Uniti, la Bosnia, la Bolivia, solo per citarne alcuni. Però forse il luogo più importante di tutti è quello da cui tutto parte, proprio la città di Bologna, in cui Eduardo e Alberto si incontrano in occasione dei festeggiamenti del nono centenario dell'università più antica del mondo, scrivi. E Bologna viene descritta e raccontata attraverso le esperienze di Alberto, no? C'è la Pantera, le manifestazioni, il 36 occupato, ma anche i quartieri periferici, la barca, i giardinetti. È un ritratto molto affettuoso della città, ma anche un po' malinconico. Perché questa malinconia, Luigi? Come ti sembra sia cambiata in questi anni la città? Io non ho nostalgia del passato, io ho nostalgia del futuro e voglio che il presente sia migliore del passato. Quindi non ho nostalgia di una Bologna che c'era e che non c'è più. C'è nel personaggio, ci sono momenti di malinconia nel senso di insoddisfazione, di rimuginamento, perché il narratore in certi momenti vive appartato, sente bisogno di unirsi ad altri per lottare. Lo fa, sì, magari una manifestazione, uno sciopero, però ha bisogno di unirsi a altre persone, ad altri individui per lottare. L'ha fatto in forme talvolta infantili, in forme talvolta parziali, in forme feconde talvolta o magari improponibili. Quella di Edoardo è una vita eroica, anche se il narratore la ritiene sbagliata, però ecco, forse al narratore manca l'essere presente, stando sempre nel proprio ambiente, a Bologna, a casa, luogo di lavoro, accudimento del figlio, e si trova in una dimensione antieroica, lontano dal luogo del conflitto. Però non è così, perché in realtà i conflitti sono ovunque, i conflitti sono nella nostra psiche, sono nel luogo di lavoro, nella famiglia, e quindi il problema è questo, che Edoardo ha combattuto ma non ha fatto mai conti con le proprie contraddizioni, tanto che da grosso modo comunista, grosso modo, è diventato un fascistoide, un avventuriero fascistoide. E questo è un problema. Quindi, al di là della nostalgia e del recuperare una comunità, un passato, bisogna fare i conti con i propri privilegi e con le proprie contraddizioni ovunque. La lotta, il conflitto è ovunque e si può trasformare in parte i rapporti sociali, compresi quelli affettivi, ovunque. Veniamo all'ultima domanda, che un po', diciamo, fa il punto sulla natura politica della controfigura. Aspetti politici che si possono un po' ritrovare, insomma, dappertutto, dal racconto della caduta del muro, la guerra dei Balcani, la politica sudamericana, il giudizio sulla politica di Evo Morales, ma anche l'emergere di piccole patrie, vecchi, nuovi nazionalismi. Una storia in cui, come dicevi, si muove molto funambolicamente Edoardo, e che Alberto invece tenta di leggere, di interpretare. Non è un'interpretazione facile. Alcuni concetti o espressioni come autodeterminazione dei popoli, ma anche lo stesso concetto di identità, di nazione, no? Sono sempre più scivolosi, più ambigui. E ciò che permette a personaggi come Edoardo di muoversi, no? Di cambiare pelle, di appropriarsi e di mescolare tutto, Che Guevara e l'Opus Dei. Quanto secondo te di Edoardo, di questa tendenza camaleontica, c'è oggi nel mondo politico attuale? Quanto dobbiamo aver paura dei nuovi o dei vecchi Edoardi? Io ho pensato di scrivere questa storia perché Edoardo è per noi italiani, per noi europei, per noi cittadini di questo mondo, il passato ma anche il presente. Speriamo non il futuro. Figure come Edoardo, trasformiste, oscillanti tra destra e sinistra, le abbiamo avute, e come dire, il Duce d'Italia, uno che veniva dal Partito Socialista, quindi personaggi che sono stati presidenti del Consiglio in Italia, che raccontavano barzellette come Edoardo, ne abbiamo avuti, quindi. E nel presente abbiamo al governo uomini che sono nominati nel libro e forze politiche che vivono a destra, con una politica di destra, ma mescolando alcune parole d'ordine che vagamente alludono alla sinistra. Quindi credo che parlare di Edoardo sia parlare del presente, del futuro, oltre che del passato. E bisogna fare i conti con questo. Certo, in Edoardo abbiamo tutto al massimo grado, però figure simili le incontriamo quotidianamente nella scena politica e dobbiamo riconoscerle, e dobbiamo riconoscere anche Edoardo in ciascuno di noi, purtroppo. E se non riconosciamo un po' di Edoardo in ciascuno di noi, gli Edoardi si moltiplicano e rischiamo tutti quanti, noi compresi. Grazie davvero. Grazie a Luigi Lollini, grazie. Autore della Controfigura, Edizioni Allegre. Siamo in chiusura, vi salutiamo con l'ultimo pezzo. Ciao.